Viva l'Italia! L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. Luoghi d'Italia di Stefano Brambilla. Buongiorno e bentrovati a Luoghi d'Italia, la trasmissione di Radio 24 che vi porta al di fuori delle solite rotte, e oggi ve lo dimostriamo per bene, visto che parliamo di Toscana e per una volta ci dimentichiamo delle colline coi cipressi, dei vigneti, delle abbazie quattrocentesche, di Firenze, Siena e anche della Maremma. Oggi parliamo di Monte Cerboli. Il perché ce lo ricorda il Granduca Pietro Leopoldo di Lorena, che a metà dell'Ottocento scriveva così. Monte Cerboli è un piccolo castello di 300-400 anime, passato il quale a un miglio si trovano in una valletta tutta erbosa per il giro di un miglio grandissime aperture e vari fumacchi. In molti l'acqua non bolle più, altri sono secchi e fumano solamente. Molti poi sono laghetti di acqua che bolle con grande impeto. In altri è spinta fuori l'acqua, 4 o 5 braccia con rumore. In molti si sente uscire di sottoterra il vento solamente con gran strepito. E si vede che fanno continue mutazioni. In un luogo se ne spengono, altrove se ne aprono di nuovi. Dove si trova Monte Cerboli e che cosa sia questo paesaggio infernale di acqua che bolle, di gran strepito di vento, ce lo spiega Roberto Parri. Buongiorno Parri. Buongiorno a voi. E grazie per essere con noi. Allora, Monte Cerboli, in che zona della Toscana si trova e cos'è questo paesaggio di acqua, di vento? Questo è un luogo caratteristico e abbastanza unico. Siamo al centro della Toscana, tra Massa Marittima e Volterra. Praticamente è un posto dove il luogo è caratterizzato da questo fenomeno naturale che è la geotermia. La geotermia vorrebbe dire utilizzare il calore, l'energia della terra. In realtà questa caratteristica, questo luogo, deriva da un fatto che è successo circa 500.000 di anni fa, molto tempo fa, in cui una massa magmatica si è avvicinata alla superficie, alla crosta terrestre. Non è fuoriuscita, perché se usciva fuori diventava un vulcano, non è fuoriuscita, ma ha fornito calore alla parte superficiale del terreno, per cui siamo praticamente, i nostri piedi stanno su un terreno che è molto più caldo di quello che è da tutte le altre parti d'Italia, quindi c'è questa anomalia, e naturalmente questo calore fa evaporare le acque sotterranee e dà questa caratteristica a questo luogo, perché le acque evaporano e in alcune parti escono anche naturalmente dal terreno. Questo vapore è stato poi sfruttato. Il primo che ha pensato di sfruttare fu un francese, giusto? Un industriale che intorno a metà dell'Ottocento si disse: perché non sfruttare questo vapore? All'inizio dell'Ottocento venne la famiglia francese dell'Arderel, che era a Livorno, e acquisì praticamente la possibilità di sfruttare i lagoni di Monte Cerboli, e siamo a Monte Cerboli che le accennava, e quindi questa famiglia cominciò, come altri a quel tempo c'erano, a utilizzare questi lagoni per produrre l'acido borico. Ecco perché poi il paese oggi si chiama l'Arderello, ed è questo il motivo per cui l'Arderello è famoso in Italia e nel mondo, grazie a in realtà un francese che per primo perfezionò questa estrazione dell'acido borico. L'Arderello è poi la prima esperienza al mondo, giusto, di sfruttamento dell'energia geotermica. Abbiamo questo primato in Italia. Esatto, perché quello che l'ho accennato ora era un'utilizzazione chimica, perché loro prendevano l'acido borico. Fu all'inizio del Novecento il principe Gino Riconti, che aveva sposato una figlia, la discendente della terza generazione dell'Arderel, che praticamente dette sviluppo, questo nuovo sviluppo, che era praticamente lo sfruttamento da un punto di vista energetico, come energia e produzione di energia elettrica, di questi vapori, che mentre invece prima venivano utilizzati a scopo chimico. E quindi dall'inizio dell'Ottocento che è stato il primo posto al mondo dove si è prodotto energia elettrica da fonte geotermica. Diamo oggi qualche dato sulla produzione di energia geotermica all'Arderello e dintorni nel 2010, o comunque negli ultimi anni. Quanto se ne produce e quanta energia si dà a quante case? Ecco, attualmente come viene utilizzata questa risorsa? Viene utilizzata principalmente per produrre energia elettrica. Quante ne produciamo? Produciamo circa 5 terawattora, il numero di per sé può dire poco, però in termini quantitativi produciamo il fabbisogno del 25% della regione toscana, quindi forniamo, diciamo, diamo energia per circa il 25% della regione toscana, ma produciamo non solo energia elettrica, ma forniamo anche calore. Qua c'è una buona attività serricola perché questo calore viene anche utilizzato per scaldare le serre, per fare fiori, per fare basilico. Viene utilizzato anche per fare del formaggio, infatti chi verrà a visitare qua questa zona può vedere intorno alle nostre centrali anche questi caseifici e queste serre. Parliamo proprio del turista che viene a visitare l'Arderello e dintorni, che cosa trova, che cosa può vedere e soprattutto come può approfondire questo interessante aspetto della vostra peculiarità geotermica? Chi viene qua può vedere i molteplici aspetti della geotermia. Un primo aspetto è quello naturale, perché quello naturale ancora permane. C'è una zona da Montrotondo, si chiama Le Biancane, che da Montrotondo va a Sasso Pisano, siamo sempre lì nei dintorni, in cui c'è tutto un camminamento in mezzo a zone a emanazioni naturali. Lì può camminare tranquillamente, ci sono percorsi guidati intorno a queste zone in cui il vapore esce ancora naturalmente dal terreno. Dopodiché c'è la cultura dell'utilizzo di questa risorsa, e la cultura dell'utilizzo si può vedere negli impianti, nelle nostre centrali. Noi abbiamo 32 centrali, ma alcune delle nostre centrali sono visitabili, vale a dire abbiamo dei percorsi intorno alle centrali. Uno è nella centrale di San Martino a Monterotondo, una è a Pianacce nella zona di Radicondoli, in cui uno può tranquillamente camminare intorno alla centrale. Ci sono tutti i pannelli che illustrano in cosa consiste la geotermia, come viene fatta, cosa sono i pozzi, cosa sono i vapordotti, come viene fatto le centrali, e quindi illustrano. Ci sono anche dei pezzi di macchine che noi abbiamo messo lì, le macchine datate, smontate, e quindi le persone possono anche vedere come è fatta una turbina toccando con mano proprio le palette. E quindi questo è l'aspetto diciamo più industriale. Dopodiché possono vedere anche tutti gli utilizzi termici, perché possono andare a visitare i caseifici che fanno il formaggio con la geotermia, possono andare a visitare le serre, e una cosa che prima non avevo aggiunto, tutti i paesi qua sono teleriscaldati, vale a dire tutti i paesi sono scaldati dalla geotermia, i riscaldamenti di casa avvengono con l'utilizzo del vapore geotermico, quindi non ci sono più camini che mettono fumo in cima alle case, ma il riscaldamento è grazie a questa risorsa naturale caratteristica di questo posto. Circa 6.000 famiglie sono riscaldate con questa risorsa. E peccato che in Italia ci sia soltanto l'Arderello che produce energia geotermica, se no avremo molti camini in meno anche in altre parti del nostro paese. Ringraziamo Parri per essere stato con noi, per averci spiegato così chiaramente che cos'è l'Arderello e cosa si può trovare in questa zona selvaggia ancora non troppo conosciuta di Toscana. Gli auguriamo una buona giornata, arrivederci. Grazie a voi e venite a visitarci. Decido di iniziare dalle piccole cose, per fare con il tempo opere più virtuose. Provo a sensibilizzare i miei amici e i parenti col passaparola sugli scompartimenti da usare, in modo che i rifiuti non invadano le strade. Ho deciso che farò la raccolta differenziata e perlomeno renderò più ecologica la mia giornata. Ho deciso che farò la raccolta differenziata, canta Jacopo Aratini, che rende ecologica la sua giornata. Ecco, a rendere ecologiche le giornate a Peccioli, che è un altro comune in provincia di Pisa, questa volta poco a nord di Volterra, nell'Alta Valdera, ci hanno pensato da tempo, e ci hanno pensato talmente bene che il piccolo paese di 5.000 abitanti è diventato un modello di risparmio energetico e di economia ambientale. Il perché ce lo racconta Renzo Macelloni, che a Peccioli era sindaco, oggi è presidente di Belvedere SPA e un po' l'anima della trasformazione del paese. Buongiorno Macelloni. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, Peccioli, comune virtuoso d'Italia, in ambito ambientale, ci spiega perché? Mi fa piacere definire virtuoso, non so se siamo tali, però sicuramente abbiamo fatto delle azioni importanti che vanno nella giusta direzione. Abbiamo fatto un impianto fotovoltaico che è più grande che attualmente sicuramente in Toscana, un megawatt di potenza, e su questo impianto abbiamo promosso una partecipazione popolare. Abbiamo messo delle obbligazioni come Belvedere S.p.A. proprio per costruire questo impianto fotovoltaico che produce energia elettrica per il fabbisogno di circa 700-800 famiglie. E l'altro aspetto importante è che noi ormai dal 97 stiamo producendo energia elettrica da fonti, da biomasse, perché abbiamo un impianto di smaltimento rifiuti dal quale estraiamo biogas e produciamo energia elettrica che siamo intorno a circa 17 milioni di kilowattora all'anno. Quindi noi tra la produzione di energia elettrica che facciamo da biogas e produzione di energia elettrica che facciamo da fotovoltaico, abbiamo una produzione che è sicuramente 3 volte superiore al consumo di tutti i cittadini e comuni peggiori. Come ha risposto la popolazione a questo programma innovativo? Ha risposto molto bene, anche perché noi abbiamo una tradizione nel coinvolgimento della popolazione. Noi abbiamo la Belvedere S.p.A., è una società che ha partecipato al 52% da comuni peccioli e per il 48% è partecipato da 900 piccoli azionisti, gran parte cittadini dei comuni peccioli. Quindi è un rapporto che è da 10 anni che è in piedi, quindi è facile per noi promuovere poi l'emissione di un prezzo obbligazionario per investire nel fotovoltaico e nel rinnovamento della produzione di energia da fonti rinnovabili. Quindi il coinvolgimento è fatto proprio sul piano economico, non solo sul piano politico di consenso, ma anche sul piano della partecipazione economica. A proposito proprio di coinvolgimento e di condivisione, adesso è in corso un altro progetto, come se non bastassero, che implica addirittura dei robot. Ci spiega che cosa significa? Sì, ovviamente noi da tempo siamo impegnati all'interno di una promozione dell'innovazione, della ricerca, in modo particolare operiamo da più di 15 anni in stretto rapporto con l'Istituto Superiore Sant'Anna e questi hanno messo a punto un robot che raccoglie rifiuti attraverso un progetto europeo e noi a Peccioli, visti i rapporti che abbiamo da tempo e ai quali partecipiamo anche attivamente, abbiamo fatto la prima sperimentazione sul campo di un robot, anzi di 2 robot che intorno al paese hanno raccolto sacchetti di rifiuti per 2 mesi e mezzo. E quindi il turista anche che si aggira per Peccioli potrebbe vedere questi robot per la città e raccogliere automaticamente carta o che cosa? Che cosa raccolgono questi robot? No, questi raccolgono sacchetti di rifiuti, fanno su chiamata, il cittadino chiama e il robot arriva a fondo delle scale, uno mette il sacchetto di rifiuti e che gli dice che tipo di rifiuto è e poi il robot le va a portare nel contenitore giusto. Peccioli è un comune bandiera arancione del Touring Club italiano, quindi è stato premiato per la sua qualità turistico-ambientale e chiediamo a Macelloni perché, che cosa ha da offrire Peccioli al turista che viene in Toscana. Peccioli è nel cuore della Toscana, la Toscana più vera, la Toscana più incontaminata. Questo è il primo elemento di valutazione, che è un dato, come dire, che viene dall'ambiente e che è mantenuto come tale. L'altro aspetto è sicuramente gli interventi che l'amministrazione comunale ha fatto negli ultimi 15-20 anni e ovviamente ha fatto interventi importantissimi sulle bonifiche ambientali, ha fatto interventi importantissimi nella cultura, abbiamo 4 piccoli musei, quindi noi abbiamo lavorato per creare condizioni a un turista di avere, ecco, questo è un paese, è un centro storico, e questo centro storico è un piccolo museo a cielo aperto. E dentro questo piccolo museo c'è aperto, ci sono altri piccoli musei di grafica, di icone, arte sacra, e quindi puoi passare non una giornata ma più giornate in un contesto autentico. Ricordiamo anche una specialità gastronomica, l'uva colombana di Peccioli? Certo, questa è una tradizione che manteniamo e tutti gli anni c'è una festa di uva colombana, ci sono ovviamente uno va a tavola e viene fatta la marmellata con questa uva. E ovviamente poi quando c'è la festa vengono fatti dolci utilizzando la colombana, utilizzando la marmellata fatta con la colombana, quindi c'è un tentativo anche di salvare la qualità mantenendo la tradizione. Anche il gusto quindi alla sua parte a Peccioli, che invitiamo tutti gli ascoltatori a visitare. Ringraziamo per l'ascolto, ringraziamo Macelloni per essere stato con noi e vi auguriamo buona giornata. Arrivederci.